appena letto il vostro comunicato, ci vuoi raccontare come sta andando la giornata, la mattinata? Allora, noi siamo qui in piazza della Croce Rossa, sotto il palazzo di Trenitalia, per fare una manifestazione, visto che comunque dopo 3 mesi che stiamo protestando ancora non abbiamo delle risposte. Stiamo chiedendo in pratica un tavolo a livello nazionale, perché fino ad oggi, dal 24 novembre che stiamo protestando sui tetti di via Prenestina, ancora non abbiamo delle risposte. Siamo qui con i compagni anche della Notav, siamo 800 lavoratori che facciamo parte del compartimento notte, Servirail, Bustel ed RSI. Stiamo manifestando nell'attesa di un incontro che venga fatto oggi. Speriamo che ci ricevano, quindi stiamo urlando col megafono all'amministratore Mauro Moretti, amministratore delegato di Trenitalia, che ci dia qualche risposta. Eh sì, perché ricordiamo, come comunque dice... volevo fare gli auguri da donna a tutte le donne, visto che oggi è l'8 marzo. Grazie, tanti auguri anche a te, una giornata di lotta quindi. Pronto? Dico grazie, tanti auguri anche a te, ed è una giornata di lotta anche per te questa qui. Ti sento malissimo. Ok, senti, allora noi mi dispiace, non so, che a questo punto ti ringraziamo tantissimo e proviamo a risentirci più tardi, va bene? Va bene. Ok, ciao, tanti auguri anche a te. Ciao, grazie, ciao ciao. 24 ore di diretta radio.